5, 4, 3, 2, 1, 0. Happy New Year. Buon anno Radio Risacca. Benvenuti a tutti e tutte ad una nuova puntata di We Speak English. Imparando con noi l'inglese. And learning Italian, popular way to say. Avrete grandi vantaggi nella vita, perché comunicare è importante. Farsi capire lo è ancora di più. A Radio Risacca ci sentiamo molto British. Infatti su I Speak English si ascolta solo musica British. Oggi conosciamo alcuni nomi importanti della cultura italiana. Conoscerete tre famosi cantanti italiani. Numero 1. Number 1. Vasco Rossi. Male. Bathtub. Reds. Numero 2. Number 2. Tiziano Ferro. Titty. Iron. Numero 3. And number 3. Renato Zero. Zero. Reborn. Ricapitoliamo insieme. Vasco Rossi. Tiziano Ferro. Renato Zero. Male. Bathtub. Reds. Titty. Iron. Zero. Reborn. Non possiamo ascoltare loro canzoni perché su Speak English si ascolta solo musica British, ma... Feel free to do by yourself. Happy searching. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm from the 45. Yeah.